tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto, ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto, e poi vanifica i miei desideri, una nenia uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi, vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole passare. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro. Perché se amore è amore, è quello che non chiede. Perché se amore è amore, non pretendendo ottiene. Però se amore è amore, non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. E se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole cadute sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora. Allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.